Simone Spezia. Il centro studi di Confindustria taglia pesantemente la stima sul PIL, cresceremo solo dello 0,2% nel 2014, la previsione del governo, lo ricordiamo, è per uno 0,8%, è necessaria una scossa politica forte, dicono dall'Associazione degli Industriali. Oggi pomeriggio a Ypres, uno dei luoghi simbolo della Prima Guerra Mondiale, si apre un Consiglio europeo decisivo per le nomine. L'ipotesi Juncker come presidente della Commissione avanza, l'Italia chiederebbe in cambio dell'appoggio più flessibilità sul debito. Pirlo ci ripensa, se il nuovo CT me lo chiede resto in squadra, atterrano in Italia gli azzurri senza praticamente tifosi ad attenderli e senza contestazioni. La Corte dei Conti sulla corruzione, nessuno indenne, troppe deroghe sull'Expo. Cantone intanto istituisce l'unità speciale per i controlli sugli appalti in vista dell'appuntamento del 2015. I primi risultati del maxi sondaggio effettuato dalla Chiesa tra i fedeli. Fedeli secondo i quali l'uso dei contraccettivi non è peccato e faticano a capire la negazione dell'Eucaristia ai risposati. Indagati per istigazione al suicidio i genitori di una sedicenne che si è tolta la vita a Forlì. Nel video dell'adolescente le accuse al padre e alla madre. Ne ha parlato, come avete sentito fino a poco fa, Gianluca Nicoletti in Melog. Ne parleremo anche noi con uno psicologo. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Effetto Giorno a radio24.it per contattarci via mail, c'è il mio account Twitter se volete, Simone Spezia, c'è il numero di sms 349-238-6666 e anche la pagina Facebook. Iniziamo dal Centro Studi di Confindustria e dai dati diffusi questa mattina, un taglio drastico della previsione di crescita per il 2014. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. Malata di lenta crescita, l'Italia è come un paziente debole che fatica a reagire alle cure. Un nuovo allarme sulla situazione economica del nostro paese, quello lanciato dal Centro Studi di Confindustria. Il PIL per il 2014 viene infatti rivisto al ribasso, 0,2% contro lo 0,7% inizialmente previsto, mentre per il 2015 la crescita attesa scende dall'1,2% all'1%. Tutto questo con ovvie ricadute sull'occupazione. Dall'inizio della crisi, ricorda Confindustria, sono andati in fumo oltre 1 milione di posti di lavoro, ma il giudizio sulla situazione economica non è totalmente pessimista, anche se la ripresa è rinviata, l'Italia non è più sull'orlo del baratro, dice il presidente Squinzi, ci sono prospettive di miglioramento, il nostro paese ha comunque risorse e potenzialità per uscire da questa fase, tutte le carte in regola, dice il presidente degli industriali, occorre però una scossa politica molto forte, sono necessarie le riforme strutturali e c'è sostanzialmente fiducia sul fatto che queste possano essere avviate da questo esecutivo. Il coraggio e la volontà di decidere non sembrano mancare al nostro premier, dice infatti Squinzi. E da Viale dell'Astronomia è tutto. Grazie alla nostra Alessandra Schepisi e noi ci spostiamo a parlare del Consiglio europeo, che si apre oggi, che potrebbe essere decisivo per le nomine, come già dicevamo nei titoli, e ci colleghiamo con Enrico Brivio che si trova appunto a Ypres per fare un punto della situazione. Enrico, buongiorno. Buongiorno. Sì, si troveranno oggi, diciamo, in questa cittadina delle Fiandre occidentali, che è un po' un luogo simbolo per le grandi tragedie degli orrori della Prima Guerra Mondiale, che ci furono proprio qui, dove si tennero 4 battaglie campali. Però i leader oggi discuteranno soprattutto dei programmi della nuova Europa e del pacchetto di nomine, con una coda che si terrà domani poi a Bruxelles. Chiaramente c'è un tentativo, un'offensiva insomma italiana per cercare di dare, sostenuta un po' anche da altri paesi come la Francia e altri paesi socialisti, per un po' accentuare il peso della flessibilità nell'interpretazione delle regole economiche, per cui che il documento programmatico sui grandi orientamenti della nuova Europa tenga conto di una maggiore flessibilità. Enrico, si è parlato di un'ipotesi, chiamiamola così, di scambio politico. L'Italia che dice appoggiamo Juncker in cambio ci date più flessibilità, per così dire. È un'ipotesi in campo? Ma sai, in questi negoziati europei poi tutto va un po'. Entra in gioco e chiaramente da parte tedesca, come sai, c'è un grande rigore su questo punto, per cui non credo che sia barattabile per una poltrona, però è vero che sui vari tavoli rientreranno anche queste considerazioni. Come sappiamo, l'Italia ha avanzato la candidatura della Mogherini per il ruolo di alto rappresentante in politica estera, Vedremo. Si dice che Angela Merkel voglia però uscire da questo vertice solo con la investitura di Juncker e voglia invece parlare di altre nomine successivamente, mentre da parte italiana, come sappiamo, sarebbe preferito avere già la definizione di un pacchetto complessivo. Non è escluso che ci voglia un vertice aggiuntivo straordinario in luglio, ma a quel punto sarebbe sotto presidenza italiana. Grazie intanto ad Enrico Brivio per questo collegamento e vediamo di fare un'analisi. Il punto di Stefano Folli. Stefano, buongiorno. Buongiorno Simone. Dunque, si aprono le danze questa volta davvero? Sì, si aprono le danze ed non credo, per riallacciarmi alla tua domanda di poco fa, non credo che ci siano baratti possibili su Juncker. Su Juncker si sta andando alla sua elezione a Presidente della Commissione e quel tanto di flessibilità che la Merkel ha adombrato fa parte, diciamo, di una certa, diciamo, cortesia istituzionale nei rapporti con le altre cancellerie, ma nella sostanza la posizione tedesca a me sembra molto chiara e non concede granché. Quello che può potrà concedere in termini di maggiore flessibilità di interpretazione, diciamo, più favorevole dei trattati, perché i trattati non cambieranno, questo è evidente, quello che potrà concedere riguarderà sarà in relazione alla nostra capacità di insistere nelle riforme, nel presentare un progetto di riforme e anche delle riforme realizzate via via che dimostrino come l'Italia si sta muovendo con maggiore successo su questo versante, ed è quello che Renzi ha fatto capire nel suo intervento in Parlamento l'altro giorno, dove appunto ha accantonato l'ipotesi di cambiare i trattati e invece ha sostenuto, ha messo molto l'accento sul programma dei 1000 giorni delle riforme, di tutto quello che mette l'Italia in condizioni di essere più credibile in Europa. Non dimentichiamo che siamo un paese che ha quasi il 140% no, di debito pubblico, e questo è qualche cosa che ci limita, diciamo, anche nelle nostre aspirazioni, nelle nostre ambizioni. Quindi credo che questo sia il terreno su cui parte la presidenza italiana, che comunque è una presidenza che potrà avere dei risultati importanti e soddisfacenti anche in altri campi, per esempio nella gestione dell'immigrazione e altri terreni del genere. Ti ringrazio, grazie a Stefano Folli per questo commento. Lo ritroviamo, come sapete, tutti i giorni alle 8 nel suo punto quotidiano per noi, per Radio 24. La corruzione, ci sono le parole della Corte dei Conti, o meglio del Procuratore Generale Salvatore Nottola, che dice che la corruzione può attecchire ovunque, nessun organismo e nessuna istituzione possono ritenersene indenni, e nessuna istituzione che abbia competenze pubbliche può ritenersi scevra di responsabilità di fronte al suo dilagare. La Corte dei Conti ha parlato anche di Expo, dicendo che è un caso emblematico di deroghe a norme e controlli. Di questo ha parlato anche il presidente dell'autorità anticorruzione Raffaele Cantone questa mattina in una conferenza stampa a Milano, e ha detto che ha di fatto istituito la task force che proprio di Expo si occuperà. Sentiamo le sue parole. Ci sarà un ufficio di staff che si occuperà soprattutto degli aspetti giuridici, e poi ci sarà un piccolissimo ufficio che si occuperà effettivamente dei controlli, nel quale io individuerò 3 sottufficiali della Guardia di Finanza, per i quali ho già chiesto un provvedimento di distacco al Comandante Generale della Guardia di Finanza, con un coordinatore che sarà un ufficiale della medesima Guardia di Finanza, che opereranno effettivamente il controllo preventivo previsto dall'articolo 30. Cercheremo, diciamo, di fare controlli che siano il più possibile snelli e soprattutto controlli che non impediscano l'attività della società Expo. Allora, non proprio tra ali di folla, non proprio celebrati dai tifosi, sono tornati e stanno tornando, meglio, sono tornati in Italia, alcuni sono atterrati a Milano, altri stanno per atterrare a Roma, gli azzurri, la nostra nazionale. Iniziamo da Malpensa, dove c'era questa mattina Giovanni Capuano, e adesso è arrivato in redazione, qua in studio con me, Giovanni. Dunque. Eccomi, ciao Simone, rientro mesto, c'erano una volta i pomodori che hanno fatto una parte della storia del nostro calcio. Adesso nemmeno qui. adesso nemmeno quelli. Ci sono stati gli sguardi bassi, musi lunghi, praticamente nessun tifoso questa mattina, nella tarda mattinata, ad attendere la nazionale alla Malpensa, che è stato il primo scalo del volo di rientro dal Brasile, volo che terminerà tra meno di un'oretta a Roma, a Fiumicino. Alla Malpensa c'erano più poliziotti e più giornalisti, in questo ordine rigoroso, che tifosi. Malgrado tutto erano scattate le misure di sicurezza perché si temevano contestazioni. La squadra, lo staff, i familiari sono stati prelevati sotto bordo da un pulmino e poi sono stati fatti uscire da un varco secondario sulle proprie auto, una precauzione assolutamente inutile. I giocatori sono sfilati sotto la pioggia, soltanto Buffon si è fermato a fare qualche fotografia con i 4-5 tifosi presenti, si è lasciato andare, ha detto: io non parlo di Balotelli, parlo solo di calcio, abbiamo fatto una brutta figura. Alla Malpensa sono sbarcati proprio Balotelli anche e il CT Prandelli, quasi nessuno però li ha visti. Perché? Perché a differenza degli altri sono stati presi direttamente dalla polizia sotto bordo, sono stati caricati su due van con i vetri oscurati e sono stati scortati da un codazzo di macchine della polizia fuori dall'aeroporto. Ovviamente delusi i pochissimi tifosi presenti, io ti faccio sentire le voci, un paio di voci, di un papà e di una figlia soprattutto, arrivati dalla zona del Lago Maggiore. Siete un po' delusi che non si sono fatti neanche vedere? Un pochino, qualcuno, Buffon è stato un signore, ha salutato, si è fatto vedere, Sirgu ha salutato, gli altri ciao. Balotelli, io volevo vedere Marchisio, ma... È negativo Balotelli, ma è colpa sua? No, non è colpa sua. No, colpa sua di come è andata? No, di come è andata no, dei suoi atteggiamenti sì. È un insulto alla gente che lavora. Ci tenevo a incontrarli. Ma sei deluso, arrabbiato? Sono un po' arrabbiato, dovevamo vincere. Sono usciti così da un varco secondario. Sì, infatti hanno fatto i furbi questa volta. Era meglio se si facevano vedere. Eh sì, come hanno fatto in Spagna. E insomma, questa è la voce dei pochissimi tifosi. Balotelli risulta che abbia fatto tutto il volo di ritorno da assoluto separato in casa, lui e la prossima moglie Fanny. Del resto stanno emergendo in queste ore in retroscena sullo scontro quasi fisico avvenuto negli spogliatoi di Natal tra Balotelli e alcuni giocatori della vecchia guardia. Per chiudere ti dico che a Milano è sbarcato anche Pirlo, non ha parlato, ma prima di imbarcarsi a Rio de Janeiro ha sostanzialmente fatto capire che in realtà lui è pronto a restare in azzurro. Ha detto: se il prossimo CT mi chiederà di andare in nazionale, io potrei ripensarci. Prossimo CT chi sarà lo vedremo, abbiamo credo un paio di settimane per parlarne. Questo ha fatto capire anche Albertini, che al momento è vicepresidente dimissionario anche lui della federazione. Allora, grazie intanto a Giovanni Capuano. Ci spostiamo a Fiumicino, dove in realtà l'aereo che porta il resto della squadra non è ancora arrivato. Andrea Viali, ciao. Ciao Simone, sì, è così, è in leggero ritardo e non dovrebbe arrivare prima delle 14 l'aereo che trasporta, diciamo, quello che resta della spedizione azzurra in Brasile dopo la fermata che c'è stata, l'abbiamo sentito, a Malpensa. E a bordo, sappiamo, sono rimasti soltanto pochi giocatori, c'è De Rossi, Thiago Motta, Insigne, c'è anche il presidente dimissionario della Federcalcio Abete, e ad attenderli dobbiamo dire che qui in realtà ci sono soltanto alcune truppe televisive, pochi giornalisti al mio fianco, mentre sono totalmente assenti, almeno a quanto ci può sembrare in questo momento, tifosi. Saremo a vedere, insomma, anche comunque qui anche non è chiaro se poi succederà come a Malpensa, non è chiaro se i giocatori usciranno assieme ai, diciamo, ai normali passeggeri, dal normale varco dal quale escono i normali passeggeri, oppure se faranno come a Malpensa e usciranno da uscite secondarie per evitare telecamere, forse per evitare eventuali contestazioni, che però al momento qui, come ti dico, insomma, sembrano poco probabili, visto che non ci sono tifosi, siamo soltanto noi operatori dell'informazione. Simone, grazie Andrea Viali, vedremo se parlerà qualcuno là a Fiumicino. Noi restiamo però a Roma per parlare di politica e per parlare di riforme, perché questa mattina, dopo l'incontro di ieri tra il Movimento 5 Stelle e Renzi, torna a parlare Forza Italia. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, proprio così Simone, il giorno dopo l'incontro tra Governo e Movimento 5 Stelle, Forza Italia ad annunciare l'accordo sul Senato non elettivo. Paolo Romani lo dice chiaro e tondo: spero che l'accordo si chiuda nelle prossime ore. Forza Italia ha presentato 20 subemendamenti agli emendamenti dei relatori, ma intanto aumentano le firme sul Senato elettivo, il famoso emendamento a firma Vannino Chiti del PD, le firme sono 35, 14 del PD, per un totale di 18 della maggioranza. Ricordo ricordiamo anche il nuovo centrodestra si è espresso a favore, e nel PD invece sono a favore Chiti, Casson e Mineo, ma non solo. Nel pacchetto emendamento Chiti c'è anche l'immunità dei senatori, che prevede, nel caso in cui il Senato neghi l'autorizzazione a procedere, il ricorso alla Corte Costituzionale. Di fatto si allinea però in questo caso alla proposta dei due relatori Finocchiaro e Calderoli. In totale sono circa 580 i subemendamenti presentati alla riforma del Senato, e da parte del Movimento 5 Stelle si ribadisce la volontà ad andare avanti. Si spera però che il Premier si dissoci da Berlusconi. Ma Romani mette le mani avanti anche sulla legge elettorale. La base da cui si parte è l'Italicum. A te, Simone. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Il centro studi di Confindustria taglia drasticamente le stime di crescita 2014, sarà un più 0,2%, il governo prevede un più 0,8%, a Renzi non mancano coraggio e volontà di decidere, dice il presidente di Confindustria Squinzi. Anna Maria Franzoni è stata messa alla detenzione domiciliare dopo, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, però non potrà tornare a Cogne. Le possibilità offerte dall'attuale quadro normativo sulla governance dei conti pubblici per bilanciare la disciplina di bilancio con la necessità di sostenere la crescita devono essere utilizzate. È quello che si legge nell'ultima bozza delle conclusioni del vertice europeo che ci sarà oggi a Ypres. Pirlo ci ripensa, se il nuovo CT me lo chiede, resto in squadra, atterrano in Italia gli azzurri, senza tifosi ad attenderli, come vi abbiamo appena raccontato, e senza contestazioni. E veniamo al testo base sul quale si articoleranno i lavori del Sinodo straordinario dei Vescovi sulla famiglia dal 5 al 19 ottobre, perché è un testo particolarmente interessante, perché contiene le prime indicazioni di quello che impropriamente avevamo chiamato il maxi sondaggio effettuato dalla Chiesa Cattolica tra i suoi fedeli. Dunque, sentiamo cosa emerge. E la misericordia è il filo rosso che attraversa l'Instrumentum Laboris, il documento preparatorio del Sinodo sulla famiglia di ottobre, la misericordia che la Chiesa deve usare nei confronti di chi, più volte ha ripetuto il Papa, è ferito da situazioni difficili, come i separati e le ragazze madri, e nei confronti di chi vive situazioni irregolari, come i divorziati, risposati o le coppie dello stesso sesso. La Chiesa deve dunque accompagnare queste persone, curare le ferite, non essere giudice severo. Il segretario generale del Sinodo dei Vescovi, Monsignor Lorenzo Baldisseri. Serve una pastorale capace di offrire la misericordia che Dio concede a tutti senza misura. Si tratta dunque di proporre, non imporre, accompagnare, non spingere, invitare, non espellere. Questo lo chiedono anche i tanti cristiani che spesso fanno fatica ormai ad accettare integralmente la dottrina della Chiesa su matrimonio e famiglia, quando ad esempio nega l'Eucaristia ai divorziati che vivono una nuova unione. Quanto alle unioni tra persone dello stesso sesso, tutte le conferenze episcopali, si legge, sono contro una legislazione che permetta tale unione, e tuttavia se chi vive tale unioni chiede il battesimo per il figlio, il piccolo va accolto con la stessa cura, tenerezza e sollecitudine che ricevono gli altri bambini. Vi abbiamo accennato ieri alla notizia, la conferenza dei servizi che si è riunita ieri non ha preso una decisione sulla Costa Concordia, su dove dovrà essere smaltita. A questo punto la palla passa nelle mani del governo, però sembra essere presa la decisione, insomma si va verso Genova, è quello che richiede anche l'azienda, la Carnival. Vogliamo parlare di questo con Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, buongiorno. Buongiorno. Allora, sembra che la scelta sia quasi fatta, anche se la scelta finale spetta al governo. Abbiamo sentito dal ministro Galletti entro il 30 di giugno, però vorrei capire voi come la prendete, perché avete insistito molto perché fosse smaltita a Piombino. Ma guardi, noi abbiamo sempre detto con una coerenza veramente assoluta che se Piombino fosse stato pronto, la cosa più normale era giusto smaltire la nave a Piombino. Piombino sarà pronta a settembre, cosa che è possibile verificare già alla fine del mese di luglio. Per portare la nave a Piombino si impiega un solo giorno e poi la nave può essere attraccata e lavorata da chiunque la Costa Crociere deciderà di farla lavorare. Non c'è ragione per cui non si segua questo percorso, questa procedura, e si insista invece nel portare a spasso la nave per 5 giorni nel Mediterraneo, rischiando non 5 volte, ma assai di più, perché come ci dice la meteorologia il tempo può cambiare e su 5 giorni la previsione meteorologica non ha nessun fondamento, si riduce al 50%. Quindi mi pare una forzatura, dopo che la nave è stata lì per qualcosa come 900 giorni, insomma, ecco. Adesso viene il diktat assoluto e un univoco che deve essere portata via subito, entro il mese di luglio, la prima settimana di agosto. Io credo che si dovrebbe fare una valutazione comparata dei rischi e vedere se non è giusto adottare un criterio di precauzione che è adottato in tutta la legislazione europea e che viene anche adottato in ogni decisione relativa all'ambiente. Costa Crociere ha diritto a scegliersi il demolitore, lo smaltitore, ma la strada che deve fare io penso che dovrebbe essere lo Stato a deciderla. E siccome il porto di Piombino è più vicino e a settembre sarà pronto e Piombino ci si arriva in un giorno, guardando la sera se il tempo è sereno, non vedo davvero ragioni per cui si debba rischiare così tanto. Senta, posto che, come abbiamo detto, deve decidere il governo entro la fine del mese, mi sembra, da come ci parla, che lei la dia per persa la partita sostanzialmente. No, io, per Piombino, sentito, continuo a ripetere delle buone ragioni. Poi se il governo non intende ascoltarle, io sono anche rispettoso delle decisioni che si prendono in ordine gerarchico. In questo caso è il governo che, insomma, si assume poi la responsabilità. Avverto soltanto con una lettera che ho già scritto al Premier della nostra opinione. Io sarei stato anche favorevole, questo ho detto, a votare a favore ieri nella conferenza dei servizi ad una sola condizione, che il 20 di luglio, quando deve iniziare l'operazione di rigalleggiamento, un giorno prima fossi mandati sul porto di Piombino a verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Se fosse stato convincente per tutti che a settembre i lavori fossero finiti, che senso ha rischiare 5 volte tanto, ma direi ancora di più, perché appunto stando in mare 5 giorni i rischi hanno un multiplo ben più alto di sì. Questa è la mia opinione. Sì, ci sono atti che potete compiere nel caso venisse fatta la scelta di Genova, per esempio ricorsi o cose di questo genere? Ci sono atti che potremmo impugnare, la mia avvocatura dice senz'altro di sì, ma io non sono favorevole ad una guerra di carte bollate. Il governo non può passare attraverso delle cose, non può passare attraverso uno scontro sul piano legale tra istituzioni come la regione e il governo nazionale. Quindi nel caso di una scelta di Genova non ricorrereste? Ma no, non faremmo certo questo atto. L'ultima non mi convince. Segnalo un dato politico. Sì. Noi abbiamo preso in carico la nave sin dall'inizio. A livello locale si è fatto tutto con grande capacità, anche in sostituzione delle presenze nazionali che dopo il disastro sono arrivate 2 giorni dopo. Io invece c'ero la mattina stessa insieme al presidente della provincia e, insomma, per 900 giorni, ormai sono tanti, abbiamo gestito la vicenda. Mi pare forte, ecco, che adesso si faccia uno strappo così netto anche riguardo alle istituzioni locali. Mi sembra un atto politicamente pesante, tuttavia è un atto politico. Io non intendo contrastare questo atto con ricorsi per vie legali La ringrazio intanto, ringrazio Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, per essere stato con noi, e saluto un altro amministratore locale, però di un comune molto più piccolo, sempre a ridosso del mare però parliamo, Domenico Madafferi, sindaco di San Ferdinando, provincia di Reggio Calabria, nel cui territorio si trovano la maggior parte delle banchine del porto, che va sotto il nome di Porto di Gioia Tauro. Sindaco, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. È già stato nostro ospite, e con lei vogliamo parlare del fatto che, da quel che risulta da alcune fonti, da quello che leggiamo anche sul sito del Sole 24 Ore in questo momento, la Cape Ray, ossia la nave americana che dovrà distruggere le armi chimiche siriane, è salpata questa mattina dalla Spagna, Spagna. Dal porto di Rota e diretta al porto di Gioia Tauro, dove avverrà il trasbordo dei container dal cargo Arc Futura. Volevo sapere se ne sapete qualcosa oppure no. No, questo sappiamo già che c'è tutto questo, che le due navi arriveranno in questione di 2 o 3 giorni. Io infatti ho preparato già un manifesto che avviserò, domani uscirà un manifesto dove avviserò la popolazione di questo avvenimento. Ma non vi dovevano avvisare prima? C'era un accordo per cui vi avrebbero avvisato prima? No, devo dire che noi saremo allertati 72 ore prima che arrivino. C'era stata molta preoccupazione da parte vostra all'inizio, quando insomma fu diffusa la notizia. Ma queste perplessità insistono ancora. Io personalmente sono stato sempre contrario a questo tipo di operazione, però non dimentico che anche in questo momento sono ufficiale di governo e quindi dovrò dare tutto il supporto che sono capace di dare perché l'operazione si svolga nel migliore dei modi e con tutte le garanzie possibili per l'incolumità pubblica. Perché qualcuno aveva detto là sul territorio, mi ricordo se addirittura lei o se il sindaco di Gioia Tauro, bloccheremo tutto, fermeremo tutto. Ma io bloccare avevamo anche ventilato la possibilità di fare una chiusura del porto, ma esperti di diritto della navigazione interpellati hanno escluso questa possibilità. Quindi lo fareste, ma non potete, in sostanza. Ma no, non possiamo fare. Io sono impegnato a dare tutti il supporto possibile, perché non ho capito, sindaco, da cosa siete preoccupati? Perché noi abbiamo interpellato anche degli esperti su questo, i quali sono molto tranquilli. Siamo preoccupati, sì, sono molto tranquilli, però quello che c'è stato in queste vicende è stata la deficienza di informazioni. Noi, per esempio, allo stato attuale, io non so che tipo di sostanze chimiche vengono trasportate, non lo sappiamo, non c'è stata data nessuna comunicazione ufficiale, eppure si dovrà sapere che tipo di sostanze verranno trasportate. Si parla di nitrite e di sarin, ma così, per notizie giornalistiche. Prevede protesta della popolazione, sindaco? Ma credo che ci sarà, perché ci sono alcuni movimenti che si stanno muovendo. Al suo canto c'è stato anche un'associazione SOS Mediterraneo, che credo che mi abbia denunciato alla magistratura, perché secondo loro avrei dovuto attivare il principio di precauzione davanti al tribunale amministrativo, cosa che io non ho fatto, perché la pianificazione operata dalla prefettura di Reggio Calabria mi sembra che sia in linea con tutti gli standard di sicurezza delle norme internazionali. Ecco, io non ho attivato questo principio, perché sulla carta sono state prese tutte le precauzioni possibili ed immaginabili, poi all'atto pratico si vedrà. Grazie Domenico Madafferi, sindaco di San Ferdinando, provincia di Reggio Calabria, le auguro buona giornata, ci fermiamo, c'è la borsa e poi dopo, nella seconda parte, parleremo della vicenda di una ragazza di 16 anni che a Forlì si è tolta la vita e i genitori sono indagati per istigazione al suicidio. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Il centro studi di Confindustria ha tagliato drasticamente le stime di crescita 2014, sarà un più 0,2% contro il più 0,8% previsto dal governo. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Delrio parla in questo momento e dice: siamo fiduciosi sulla nostra previsione. Anna Maria Franzoni è stata ammessa alla detenzione domiciliare, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, non potrà però tornare a Cogne. Oggi si apre un Consiglio europeo decisivo per le nomine, l'ipotesi Juncker avanza, l'Italia chiederebbe in cambio dell'appoggio più flessibilità sul debito. Pirlo ci ripensa, se il nuovo CT me lo chiede resto in squadra, atterrano in Italia gli azzurri senza tifosi ad attendervi e quindi senza contestazioni. È il momento della borsa. Borse in diretta. Una giornata solo marginalmente positiva, più 0,14% sul FTSE MIB, più 0,15% sul FTSE OCHER, altrettanto nel resto d'Europa, con Parigi che guadagna lo 0,11% e Francoforte lo 0,05%, Londra scende dello 0,03%. Isabella Tasso, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Molto poco mosse nelle cose, mi sembra. Le borse sono veramente incerte, Milano, come dicevi, appena sopra la parità, e questo nonostante il buon esito dell'asta del bot a 6 mesi, che ha avuto rendimenti su un nuovo minimo storico poco sopra lo 0,3%, è una domanda molto vivace. A Piazza Affari pesano ancora una volta le banche, il Banco Popolare perde oltre il 2%, fanno eccezione nel Monte dei Paschi di Siena, che sono poco variate, tentano un recupero dopo gli scivoloni delle ultime sedute. Ultima domanda, vedo una Mediaset che sale del 4,05%, è stato fissato a mezzanotte il limite per assegnare i diritti TV da parte della Lega di Serie A, è su questo che sale, no? Sì, Mediaset sale su questo, continua a correre, come dicevi fa più 4%, si aspetta la decisione della Lega Calcio sui diritti TV, la Lega sta tentando una mediazione fra Mediaset appunto e Sky. Grazie a Isabella Tasso di Radio Cori, Sole 24 Ore, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E adesso parliamo di una vicenda molto delicata, una storia che arriva da Forlì e che riguarda una ragazza di 16 anni che si è tolta la vita il 17 giugno scorso. Che cosa è successo? È successo che questa ragazza ha lasciato un video nel quale racconta di quelle che definisce vessazioni, eccessive limitazioni da parte dei suoi genitori, e adesso la procura ha deciso di indagare i genitori con l'ipotesi di istigazione al suicidio. Ne vogliamo parlare con Fulvio Scaparro, che è psicoterapeuta, scrittore, già docente di psicologia dell'età evolutiva. La saluto, buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno. Allora, le chiedo una lettura, se vogliamo, di questa vicenda, perché insomma anche da genitori su tutto questo ci interroghiamo, no? Si dice spesso che il mestiere più difficile del mondo, dicendo quasi una banalità, e però riuscire a leggere i nostri figli è complicatissimo. È vero, questo lo sappiamo tutti per esperienza, anche per i figli, che leggere i genitori è difficile molte volte, c'è reciproca la lettura, però in casi come questi non posso entrare nel merito perché non conosco direttamente la vicenda, però rimane il fatto che la procura non può fare a meno di indagare, perché c'è comunque questa, diciamo, denuncia da parte della ragazza, e quindi non è detto che il fatto che i genitori siano indagati significa che siano colpevoli naturalmente per questo. Quindi noi dovremmo intanto rispettare una tragedia che comunque è immane, nel senso che la perdita di una vita e la perdita di una figlia per i genitori merita comunque tutta l'attenzione e il rispetto possibile. Le reazioni di solito sono, come tutti sappiamo, da una parte caccia al colpevole, dall'altra, è quella che io preferisco naturalmente, prima di tutto sostenere chi è rimasto ancora su questa terra e poi lasciare che la magistratura faccia il suo lavoro. In linea di massima posso dire che molte volte, conoscendo altre famiglie e altri genitori, questo timore che i ragazzi ai quali viene dato un rifiuto facciano qualcosa di pesante nei propri confronti e quindi o si suicidino o comunque facciano qualche cosa che è irreparabile, Molti genitori, ma questo non deve impedire naturalmente ai genitori di dire no quando ritengono opportuno e soprattutto di farlo dopo aver ascoltato comunque i figli, aver dato ai figli la netta sensazione di essere comunque presi in considerazione. Noi non sappiamo che cosa è avvenuto in questa casa. In linea di massima, quindi, io sospenderei, diciamo, il giudizio sui genitori e approfitterei di questo fatto per trarre qualche diciamo, conclusione, suggerimento per tutti gli altri genitori. Direi pure che dobbiamo un po' accettare il fatto che esistono dei genitori imperfetti, come la gran parte di noi è. Imperfetto vuol dire che abbiamo i nostri limiti, quindi qualche volta facciamo delle cose che non vanno, ma per evitare che ci siano conclusioni come questa, normalmente la vicinanza ai ragazzi, l'ascolto attento, non essere distratti nei loro confronti, saper dir di no ma sempre spiegando il motivo, accettare anche il fatto di non essere popolari con i figli, questo li aiuta a crescere, quindi non dobbiamo essere paralizzati dalla paura di quello che può succedere. Senta, professore, quello che vorrei capire da lei è anche se a suo giudizio, insomma, anche nel lavoro che fa e quindi la lettura che può dare della società, è diventato tutto più difficile per i genitori negli anni, cioè la gestione dei figli, in particolare in adolescenza, l'equilibrio dei sì e dei no da dare ai figli a fronte di modelli comportamentali all'interno delle famiglie che ormai sono variatissimi rispetto a quanto era, penso solo a 30 anni fa. Certo. Le variazioni ci sono e come, però intanto dobbiamo dire che il suicidio in età adolescenziale non è certo una novità della stagione, ma ne abbiamo memoria, traccia non soltanto negli anni passati ma nei secoli passati, vuol dire che stiamo assistendo a fenomeni che non sono nuovi, visto che i ragazzi sono in un'età particolarmente difficile, quindi se non c'è qualcuno che li aiuti, sostenga, può capitare che esiti di questo genere. Però la sua domanda, diciamo, i genitori oggi sono diversi, si trovano in difficoltà. Io posso soltanto dire che trovo ragazzi fragili con adulti molto spesso o distratti o spesso addirittura fragili a loro volta, perché siamo arrivati al punto in cui ci sono dei genitori che hanno paura dei propri figli e non sanno che cosa fare perché temono chissà quale esito di ogni scontro, cioè il timore del conflitto. Invece il conflitto fa crescere, perché non da che mondo in mondo non è stato mai facile crescere, né facile essere genitori. Allora bisognerebbe cominciare a riprendere alcune norme fondamentali, che sono quelle che una delle quali è la differenza di età tra genitori e figli dovrebbe dare a chi è più anziano esperienza, saggezza e anche qualche volta pazienza e capacità di dire no e soprattutto di esigere rispetto. Questo non avviene molto spesso, mi capita di avere contatto con famiglie nelle quali i figli si permettono di maltrattare i propri genitori, come molto spesso accade, e i genitori che non hanno la forza di poter reagire a una cosa di questo genere perché pensano chissà che cosa può avvenire, il figlio scappa, il figlio si fa male, eccetera. Quindi bisogna riprendere un pochettino le norme di base del rapporto genitori-figli. Questo però, attenzione, non in molte famiglie questo avviene, quindi non abbiamo una visione troppo tragica della situazione. Molti genitori fanno il loro mestiere, la stragrande maggioranza fa il loro mestiere facendo quello che può e ottengono un minimo di attenzione, di rispetto e di ascolto da parte dei figli, ma deve essere reciproco, l'ascolto deve essere anche dei figli da parte dei genitori. Se aspettiamo però che gli adolescenti ci diano soddisfazione immediatamente durante la nostra vita, è un po' dura. Di solito un buon genitore è riconosciuto come tale alla memoria. Grazie al professor Scaparro anche per questi chiarimenti e questo aiuto, speriamo, anche per qualche genitore in ascolto. Le auguro buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ed è il momento di Mario Platero.